Cipro per prendere un baracchino conviene prendersi una radio Siria, UHF, che faccia tutte le frequenze, che prende questi baracchini, spenderci 400 euro in modo a truccarlo, a fare le cose, poi che senso ha? È sempre un baracchino, capito? Quando inizi a modificarle, tu non hai tutti i problemi che ti creano dei disturbi. Io ho sentito certe storie e visto certe storie che sbatteva di 10 canali. Qua molte volte io sento gente attaccando, qua per dire che io a Claudio ce l'ho vicino a Linaria, saremo 500 metri, ma Claudio con quell'apparato che utilizza lui, io sbatte non lo sento a lui. Ad altra gente che trasmette da tutt'altra parte della città, dalla parte opposta della città, uscendo con 10 watt, lo sento di tre canali sbatterando. Per cui cosa vuol dire questo? Vuol dire che non serve a niente. Io l'ho catturato lì, andate a farsi un giro nelle zone di su, col baracchino, questi con tutti tipo modulatore e cose del genere, mi sono dovuto spostare, ho detto salvato, andiamoci da un'altra parte, tutti i 40 canali ce l'avevo di splatter, sull'apparato grande, non sul piccolino, ho detto spostiamoci, io non riesco a sentirti, e lui arrivava a 9-10, gli splatter arrivavano più di 9-10 su tutti i canali, era una cosa allucinante. Erano vicini a me, ma non riuscivo a parlare, alla fine ha detto io spostiamocene, andiamocene da un'altra parte perché qua non si può parlare. Sì, no, ma poi pigliano tanti di quei colpi, il 48 specialmente, ma colpi, lui. Non lo so, ma il 48 è eccezionale come modulazione, quello è probabilmente uno dei migliori baracchini come qualità di emissione, ma di ricezione è una grande cagata, ma proprio una cagata. Ah, eccezione, pigliano tanti di quei colpi. Io l'ho provato uno, mamma mia, ma dai, no, tu parlando su 10, io su 5 mi sblatteravi di brutto, vai, dito, vai, magnadino. L'hai fatta la prova col mio, adesso parlando con questo, quanti canali ti sblattero io? Provo a vedere. Spostati di due canali, qualche 1, 2, 3, prova radio, attenzione, prova radio. Vai, prova, io mi sposto. Sì, adesso attenzione Falchetto, prova radio, se mi cuppi, se mi sblattero, eccetera, eccetera. 1, 2, 3, prova. No, mi sblatteri solo il 9. 9 era per 8. E te vedete, siamo molto vicini. Però il problema è, in quel caso lì non è dovuto a me, è dovuto al baracchino che è un pochettino poco selettivo. Perché se io faccio la prova con Claudio, lui mi ascolta con un apparato serio, tu vedi che lui mi ascolta solo sul 10, cioè non mi sente negli altri canali, perché c'ha i filtri stretti, eccetera, eccetera. A proposito, Claudio, non si senti tu? Sì? No, non l'ho sentito, no. Ma questo non è che prende colpi, a occhio, attenzione. Questo mi ha sblatterato sul 9, ma poca roba, eh. Sì, ma vedete, siamo molto vicini. Ma io ho visto gente lontano, chilometri da me, non voglio fare nome perché non mi piace, ma totalmente dalla parte opposta della città, con segnali che, a te non so quanto ti stai arrivando, mi immagino quanto arrivo, dimmi, dammi un controllo. Sì, 9 più 30, a picchi positivi. Appunto, e siamo abbastanza vicini, 9 più 30 potrebbe essere anche plausibile un discorso del genere di uno splatter, non c'è niente di strano perché siamo vicini, però io con segnali 9 più 10 mi splatteravano, per cui vuol dire che il baracchino non sta funzionando bene, che sta andando male. Un segnale 9 più 10 mi sposto i due canali e te lo sento ancora sotto, vuol dire che è troppo largo come modulazione. Sì, infatti lo osservo. Il baracchino deve essere selettivo, se sei sul 10 risentire sul 10, se sei sul 9 risentire sul 9 e via dicendo. Non deve prendere colpi, perché se prende colpi non è più né baracchino né radio, capito? O dice qualcosa che non va. Sì, no, ma è normale quello. Ma... poi ci sono quei baracchini, dice il mio non è prendere dei colpi, però non senti niente, è sordo, che cosa giamba? Perché anch'io è come che io mi chiudo a tutte le refreghine e dico non ne sento di sblatter, non sento a nessuno, però non intendo manco i segnali quelli deboli. È proprio vero, è tutto, tu mi chiudi tutto il coso, non senti le refreghine, non senti le sblatteri, però non senti neanche a lui. Sì, infatti è così, perché questo non è prende di colpi, però bisogna vedere se riceve il burro. Mari, a 48 pigliamo di sbattere, però Mari segnale debole e te lo riceve, per dirti, per fare un esempio negativo, ma vabbè, lasciamo perdere, cambiamo argomento. Io dico, infatti, molte volte in Bolivia ti spende un bolivino a fa' nulla. No, io come procuro i soldi, sulle 400-450 euro, prendo, mi piglio un signor apparato, meno, vabbè, e ne voglio prendere uno e poi gli altri non se ne parlo neanche. Sì, ma non c'è bisogno poi neanche di avere potenza, cioè un po' di gente piglia e poi si attacca amplificatori al baracchini, potenze esagerate, e poi tu esci con uno di quelli lì che sta uscendo con 40 watt, 30 watt e lo schiacci, perché c'hanno il processore che ti moltiplica la potenza. Ed esci 4 volte più forte di lui, pur avendo la stessa potenza, cioè molto meno potenza. Sì, quello è, no, ma io proprio, guarda, sono contrario a mettere queste potenze, che senso ha, scusa, torniamo al discorso che hai fatto tu, e poi magari ti entra un paracchino semplice, normalissimo, e ti spara tutti quei vati, capito? E non ha senso mettere niente, dai. La maggior parte di tutti quelli che io ho sentito che hanno attaccato amplificatori hanno tutti problemi. Il 99% di tutti quelli che ho sentito che hanno messo gli amplificatori o saturi di voce, o se ne mangia la voce, oppure è distorta, oppure disturbi al naso, fischi e cose del genere, rientri. Guarda, rarissimi ne ho visto di gente che c'ha roba attaccata invece nello stesso modo di quando è attaccato, parliamo di senza modificare l'emissione. Il 99% escono tutti, come attacchi l'amplificatore, hanno dei problemi. Io ti dico anche di più, lo sai, possono rovinare anche l'antenna. E poi non parliamo, non l'antenna, ti puoi rovinare l'apparato, perché molte volte tu gli dai troppa potenza, devi fare, ci sono tante cose da vedere. Quando si fanno questi accoppiamenti poi devi stare attenti ai rientri di radiofrequenza, perché se tu hai un rosso, come si chiama, un rientro di 1,5, 1,6 non succede niente, poi magari attacchi l'amplificatore e ti porta tra le stazionarie e prendi altri che rientrati mezzo watt di rientro, te ne tornano 10 e sull'amplificatore e sul ligato V. Devi stare molto attenti facendo queste cose, l'impianto deve essere allineato perfettamente, tutto messo a terra eccetera eccetera, alimentatori di certi livelli. Poi non parliamo se usano quelli a valvole, se non stai attento ti fai meneggi, burro, perché molta gente si mette a fare esperimenti e vedi cosa ne succede. Bene. Oh, io ho sono tutti macchine, ma se la casa te la così devi mettere anche così, non stai di a modificare o fare, tutte macchine insomma. Poi a me mi fanno ridere molte persone, vedo, cioè il baracchino l'hanno parato, tu c'ha 5 watt. Poi tirano il collo per farne uscire 10, 8 watt. Tu quale segnale da quando ne hai attaccato 5, quando ne hai attaccato 8 non cambia minimamente. Per avere tu un raddoppio di potenza devi mettere 4 volte la potenza. Cioè se c'è 10 watt devi mettere 40 watt per avere un punto S, un punto di segnale più alto. Devi avere 4 volte la potenza per da 10 portarla a 40. Così ti accorgi del guadagno di potenza. Se no non te la abiti nemmeno. Perché ti faccio vedere delle prove. Con 10 watt e con 50 watt tutti, non cambia niente. Quante volte hai sentito? No, non mi cambia niente. No, oh, è vero, è tutto macchine. Chi conta, qualcuno già lo sa, non voglio fare il filosofo, è l'antenna. Se tu c'hai un'antenna che rende, qualche con mezzo watt, tu andi un bel di più di quello che ne ha 50. Se c'è un'antenna allineata bene, ottima posizione, un altro guadagno, l'antenna si carica un bel di più. Sì, è vero, è la posizione, è il tipo di antenna. Vedi, io miglioria che ho fatto da quando scivolo col bastone. Io vedi, ho comprato questa antenna e sono più che soddisfatto. Hai detto tutto, visto? Chi conta l'antenna? Tu, cioè, avevi lo stesso apparato e ti ascoltava un bal di a Platamona. Allora attacchi e ti ascoltano cosa di bocciura a Castelsanno. Chi conta l'antenna? È vero. Sì. Come uno stereo, tu puoi avere l'amplificatore più bello del mondo, se c'è le casse che non valgono niente, chi ti dà il suono è la cassa. E conta anche l'amplificatore naturalmente, ma io parlo a parità di amplificatori. Le casse, tu puoi avere una cassa buona e c'è un suono. Se metti una cassa da 13 c'è un altro suono. E così è l'antenna. Chi conta è l'antenna. Sì, è proprio vero. Il cuore dell'apparato è l'antenna, c'è proprio una lontana. È inutile avere questi grossi baracchini e avere un'antenna che non si è venuta, non spinge niente, capito? C'è una buona antenna, può ospitare tutti i tipi di baracchini, è proprio una lontana. Sì, no, è normale. E poi guarda che radioamatori se lavorano con una... vabbè, ci sono anche gli amplificatori naturalmente, però lavorano l'antenna, c'hanno delle... Tu sei salito in zona alta del monte, non so se ti è capitato. Eh sì, devo abitare a Lantarino, ne ho visto un paio, ne ho visto anche giù a Quattro Torre, se alle punti, sono delle bestie che sono al tennone proprio con i contraccomboli. Vai, sono alta del monte, ti alzi un po' lo sguardo e vedi cosa c'è di lì. L'indicazione di una persona, un grande amico, diciamo, ogni tanto qualche volta entra qua, già credo che lo conosci anche tu, parliamo ancora con le contropalline, guarda che la stazione cosa c'è di antenne, poi vai nella zona bassa di Ripunti e vedi lo stesso cosa c'è di antenne e ti rendi conto, loro lavorano con le antenne. A quei livelli si lavora l'antenna, mica lavori con un coso, solo con la potenza dell'apparato. Fate in conto, quando c'è un'antenna che ha 5 dB e poi ne ha un'altra che ne ha 15 dB, c'è una potenza 100 volte superiore. Ma tu hai una curiosità, ma quelle antenne si girano se stesso? Sì, certo, quello è il vantaggio, c'hanno il motore, anche io ce l'ho motorizzata, la direttiva me la sono messa, purtroppo in 27 noi lavoriamo in polarizzazione verticale, io l'ho messa in orizzontale, per i DX ci vuole quella di orizzontale, però se devi fare un collegamento tipo abbastanza vicino, tipo Buduso, quello di Pinocetto, se l'avessi messa in verticale l'antenna, vedi come ti cammino, perché qua c'è la antenna che ho io, c'è una resa molto molto superiore alla Mantova come rendimento, però la vorrei montare in verticale per avere il guadagno massimo, diciamo, c'è l'onda che trasmette lui è orientata in un verso, diciamo, e io la sto ricevendo in un altro verso, per quello che non riesco a sfruttarla al 100%. È vero, sono delle bestie, ma sono delle direttive, se è fatta bene, non ce ne fa nessuno. Sì, già lo so, quello è normale. A Mantova tiene presente, c'è l'irradiazione su 360 gradi, per cui ti faccio un esempio semplice così lo capisci meglio. Tu prendi un tubo d'acqua, prendi un tubo largo, per dire, di diametro 10 cm, come sfrutta l'acqua arriva a 3 metri. Prendi lo stesso tubo con la stessa quantità d'acqua, però prendi un tubo stretto, tipo con un, che ci passa un dito e mezzo, quanti metri ti arriva l'acqua? Ti arriva 10 volte tanto, la stessa cosa è la direttiva. Ah, ecco, ecco. È vero. Più stretta è più pompa. Non più stretta, più elementi c'ha, diciamo, adesso io sto facendo un discorso molto elementare. E così il discorso, tu in una direzione spari tantissimo, cioè la Mantova e con le antenne che utilizziamo noi, sono antenne, si chiamano omnidirezionali, irradiano la stessa intensità di segnale in tutte le direzioni, sia nord, sud, est, ovest, cioè è sempre lo stesso guadagno di antenna. Con la direttiva invece ti metti tutti questi elementi uno dietro l'altro, si chiamano riflettori e direttori ci sono, e questi ti fanno in modo come che hanno uno specchio dietro, quando tu prendi una lampadina di una macchina, se tu prendi la lampadina di per sé ti fa 10 metri, se li metti la parabola dietro ti allunga ancora il fascio, e questa roba usano questi sistemi di riflessione, c'hanno i riflettori dietro e allungano la portata del fascio, in questo caso dell'onda elettromagnetica, però ti toglie i lati, e quando è la garantena c'è un diagramma, si chiama diagramma di radiazione, e si riduce il lobo di radiazione, ti va molto davanti lunga l'onda, però nei fianchi ti si riduce, più elementi c'hai e più vai in profondità, però il guadagno aumenta, però si restringe il campo di radiazione, per cui devi fare in modo che ti devi orientare in quella direzione. Se devo parlare per dire con la Spagna e ce l'ho orientata di 10 gradi spostata, non ci parlo perché non ce la fa, devo mettermi perfettamente allineato, come c'è presente quei fasci laser, quei proiettori laser che vengono, la stessa cosa, tu fai lo stesso principio, sparano molto lontano, però la luce è talmente sottile che non illumina, te ne va solo in quella direzione lì, e per cui lo stesso principio è l'antenna direttiva. Capo, adesso ho capito. E questo è un principio semplicissimo, tu aumenti gli elementi, e più aumenti gli elementi più aumenta il guadagno, però diminuisce l'angolo di radiazione, per cui aumentando questo numero di elementi è sempre più stretto il passaggio, questo canale di radiazione, devi orientarti perfettamente l'antenna, devi sapere le posizioni esatte di quello che devi trasmettere, quanti gradi è spostata, 10 gradi a ovest, ti metti spostando l'antenna in quella direzione lì e spari in quel punto, ma fanno collegamenti oceanici, cioè da intercontinentali, dall'Italia agli Stati Uniti, loro lo fanno normalmente i collegamenti, soprattutto la notte che c'è la massima, come si chiama? quantità di energia nell'aria che ti permette di riflettere. La riflessione su certe frequenze normalmente le utilizzano la notte, che c'è la propagazione notturna. E cappa cappa. Sono cose belle. Ehi, così potevo sì. Ma ce n'è da dire qua. Sulla spazio ci mettiamo a parlare di radio, guai. Io sono un grande appassionato. Più che altro a me, oltre che trasmettere, mi piace anche ascoltare. Per quello mi sono acquistato da poco, di recente, un ottimo ricevitore. Ho da tanto tempo che lo desideravo, alla fine è capitata l'occasione e me lo sono acquistato. Ma tu hai cosa fai di tuo ricevitore e ti metti le mani in testa? Dei segnali che neanche ti immagini, che tu è impossibile, dici non è possibile che ricevi, invece con quello c'è una selettività, una sensibilità impressionante. Ma ci va che un'antenna data per questi ricevitori, no? Sì, certo, naturalmente, siccome sono larga banda, questo fa tutto, fa da questo grande fa da 25 a 2000 mega, a 2 giga, e l'altro piccolo fa un pochettino più giù, fa da 0 a 2000, però il piccolo è un giocattolino, questo invece è un apparato più serio, però ti devi sentire dei segnali che tu, per dire, una stazione radio di modulazione frequenza, queste radio private, che per dire tu con qualunque radio non riesci a sentirla, ti piazzi questo qui e vedi, te ne tira fuori anche la puccia dall'orecchio. Pensa tu cosa tutto fanno le antenne, ci pensi? Sì, poi probabilmente se riesci a mettergli un'antenna per ogni banda, perché l'antenna teoricamente deve essere, per avere la massima resa deve essere accordata su quella frequenza lì, in ricezione magari lo noti molto di meno, ma in trasmissione deve essere perfettamente accordata, se no è inutile, come che c'è un pezzo di fil di ferro. Se tu riesci a mettergli un'antenna per dire per le HF, un'antenna per le V, una per le U ancora meglio, perché gliela metti selettiva su quella banda di frequenza e c'è un guadagno ancora migliore. Poi se metti, come ho fatto io, una direttiva col motore, ti orienti, basta orientarti l'antenna in quella direzione dove vuoi ascoltare, c'è dei rendimenti allucinanti. Sono cose belle veramente, Robert, lo so, non ti serve a me, anche a me se prendo un ricevitore, giusto così per ascoltare, non per altro. Sì, no, a me, io sono sempre stato appassionato della radio, della ricezione. Un po' per satellite mi sono calmato, perché c'è un impianto di un certo livello e mi posso vantare di essere ad alti livelli su quel campo lì. Non so quanti ce ne possano essere a Sassari gli impianti di quel genere che ho io, di ricezione satellitare, parliamo con motori, eccetera, eccetera, impianti motorizzati con certi tipi di ricevitori. Ci vedo molta gente a Sassari, e Sassari è zona limitrofe, che ci abbiamo l'impianto che ho io. Kappa. Ah, è bello ascoltare anche certe cose, a me piace la verità, si dica, sono cose che illuminano. Sì, no, ma diciamo la radio, lo sai cos'è la radio, bellissima, niente da dire, però non vedi, ascolti e basta, ma tu quando ti togli la soddisfazione dici che mi sono messo e mi ho guardato il trasferimento della RAI che sta dando la partita tra di Bossudi, Germania e Italia, loro quando fanno il collegamento alle stazioni utilizzano i satelliti e tu vedi, ti vuoi ascoltare, vedere prima che arrivi il programma, vedere quando c'è porta a porta, tu mica sei convinto che te lo diano in diretta, quei programmi lì sono tutti registrati, i servizi dei telegiornali, quando c'è il collegamento, sono tutta roba registrata quella lì, molte volte in diretta, però dice adesso guardiamo il servizio del signore eccetera eccetera, quando c'è un evento importante, glielo mandano subito via satellite, loro se lo registrano e poi te lo fanno vedere, e tu ti prendi, si chiamano feed di trasferimento questi qui, e tu te li ascolti, ce l'hai in anteprima, sai le soddisfazioni mi sono tolto di vedere certe dirette, prima di fare vedere, quando c'era, ti ricordi tu quello lì, guardi tu, quel programma di Simone Ventura, ti è mai capitato quello del calcio? Sì. Allora, lì c'è la frequenza collegata in diretta e poi quando si collegano lo fanno vedere, però tutti guardi, si chiamano fuori onda quelli lì, tutti guardi, loro che sono tutti seduti fumandosi la sigaretta, parlando per i fatti loro, poi dicono attenzione, adesso c'è il collegamento, li senti, c'è il tipo che parla, allora diventano subito seri e si mettono a parlare seriamente. Ed è bello vedere queste fuori onda, perché molte volte ti trovi dei personaggi, delle persone e dici ma vedi che tu Marco, noi ce lo crediamo tutto quanto, invece avete a dire fumendi, abufurendi, dicendo parolacce eccetera eccetera, e ti capita molte volte queste fuori onda di vederle. È vero, è vero, è sempre bellissimo da vedere. però parliamo di altre cose più importanti, per dire, se uno è appassionato di altre cose, per dire, c'è il satellite, ti colleghi col satellite della NASA e ti guardi gli astronauti, vabbè, tu mi dai, non te ne affutti nulla, però ti vuoi vedere cosa ti posso dire, la Renault c'ha un satellite, dovrebbe fare i corsi di aggiornamento con i suoi concessionari, cose del genere, ti colleghi e ti guardi quello che stanno dicendo loro, di tutti i generi, di qualunque genere, la CNN in diretta dagli Stati Uniti, te la vuoi vedere, anzi che vedetela registrata come ce la vediamo noi, che è tutta diversa, cioè registrata, è sempre in diretta, però è diversa dalla CNN americana, noi ci guardiamo CNN International, che è quella per tutto il mondo, però se tu ti guardi la CNN, quella che c'è in America, è diversa da quella che possiamo vedere noi, tutta un'altra mura, oppure guardarti un canale arabo, che non so cosa ti guardi, ne vedi, vede un'altra partita in arabo, cosa del genere, ci sono tante cose interessanti, io da quel punto di vista posso dire la mia, molto di più di quanto posso dire qua sulla radio. Lo credo. No, sono cose belle. In effetti è così. Quando una cosa si vuole o si fa come Dio comanda, oppure non se ne fa niente. Ma me ne ho preso un altro da poco di ricevitore, mi sono fatto un regalo a Natale, io avevo già un ottimo ricevitore, era il topo all'epoca, e adesso ne ho preso un altro che è ancora meglio. Non so se l'hai visto tu gli impianti miei, dove lavoro io, l'hai visto? Sì, le antenne. L'hai visto le antenne parabolica? Sì, ce n'è una in particolare, ho visto, quella più grande. No, sono tutti e due grandi, no, una è un po' più grande, dai. Sono tutti e due impianti motorizzati di un certo livello, grossi. Sì, infatti ne ho quella che mi è data a occhio, quella la più grande, diciamola. E appunto non è che ne vedete da tutte le parti di quelle cose, magari 10 anni fa qualcuno la vedesi, adesso è molto molto raro vedere, perché tutti hanno, nessuno interessa a vedere altri canali, cioè tutti si mettono Sky e si collegano direttamente al satellite Outbuild, il classico satellite dove vanno tutti, ma gente appassionata che si diverte a cercare altri satelliti raramente ne vedi. È vero. Prima era una bella soddisfazione quando io mi guardavo, prima che ci fossero le televisioni private tipo Sky e cose del genere, che tiravano le partite, la partita della della domenica, che per dire non c'era il posticipo, l'anticipo, poi ti prendevi i trasferimenti della Rai o di qualche altra televisione, ti guardavi la partita, perché prima per dire 10 anni fa non le davano le partite in televisione a pagamento, poi sono uscite più di 10 anni, parliamo 15 anni, stiamo parlando nel 95, io ce l'ho dal 95 l'impianto motorizzato, ma te ne sono 14 anni fa diciamo, e le partite non c'era ancora Telepiù eccetera Sky, e per cui le partite non le davano in televisione, io invece me le guardavo, capitavo, attaccavo e mi vedevo la partita in diretta. È bello, sì. E tu quando dici io mi sono visto la partita Juventus Milan, come è fatta? Io me la sono vista, io me la sono guardata, e non era da tutti a dire una cosa del genere, perché tutti poi magari ti guardavi solo il servizio della partita, oppure ti guardavi la partita quando per dire c'è la Coppa Italia, come ce la guardavano tutti alla televisione, però vedetela in diretta alle 3 del pomeriggio, come me la sono guardata io tantissime volte, era da tutti. Già lo dico. Ok, anche io vado a caricare. Ci sentiamo, Roberti. Mi ha fatto piacere scambiare due parole. Ci aggiorniamo tutta la domani se coincide. Ciao, Roberti. Ci sentiamo domani. Ehi, ciao. Anche a me è stato un piacere, non c'è problema, già lo sai. Buona carica, buon tutto. Aspetto, faccio un giretto qua. Se c'è qualcuno, se no anche io chiudo e poi vado a guardarmi un pezzo di televisione. Ciao, di nuovo, Fabio. Ciao, Roberti. Vediamo un po' su 10 se c'è qualcuno, attenzione al canale 10, chi vuole entrare avanti con la buonasera. Ora, canale 10, attention please, do you copy number 5?